Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sono le 21 e un minuto primo di oggi, martedì 21 febbraio del 2012. Buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato e Francesco Calzavare, e anche buon ultimo di carnevale. Esatto, buona serata ai nostri ascoltatori. Buon ultimo di carnevale. Benissimo, quindi abbiamo il nostro Maurizio Calzavare vestito per l'occasione da maghetto, non è il maghetto di Harry Potter, però il maghetto della musica, perché tu ne conosci un'enciclopedia e niente di fronte a te, Maurizio. Ne conosco. Benissimo, allora vediamo se conosci cosa succede in questa serata di martedì grasso. Succede una cosa molto bella. Diamo la valida alternativa, se non altro, a quello che è lo strombazzare in giro per il centro. Ricordiamo che l'avete potuto fare tutta oggi, nelle varie città italiane, e quindi questa sera prendetevi un po' di relax, perché insomma di 4 giorni per festeggiare direi che sono più che sufficienti. Quindi il 4º giorno serve per una introspezione, e per questo serve la radio. E naturalmente non serve una musica qualsiasi, serve la musica che vi proponiamo durante le nostre programmazioni live. E allora, perché non presentare il gruppo che è venuto a trovarci da Torino? Loro sono gli Incomunicado. Eccoli qua, buonasera ragazzi. Ciao, buonasera. Allora, fatto buon viaggio innanzitutto? Benissimo, benissimo. Anche dalle parti di Torino si festeggiava il carnevale? Si festeggiava il carnevale, era bello, c'era una bellissima giornata come qui da voi. È quasi primavera. Anche se i meteorologi non hanno, come dire, messo da parte l'allarme per quello che potrebbe essere una nuova gelata prima di far vedere quella che sarà la primavera del 2012. Da domani in avanti, comunque. Da domani in avanti. Quando siete tornati a casa. Quando siete tornati a casa. Benissimo, però prima di tornare a casa ricordatevi che avete un paio d'ore qui da dedicarci con la vostra musica. Allora diamo il benvenuto a Fabrizio, Enrico e a Davide, che sono 3 dei 5 membri degli Incomunicado. Chi abbiamo lasciato a casa? Ciao, abbiamo lasciato a casa Luigi, il batterista, e Luca, il chitarrista, che per impegni vari non sono riusciti a venire qui con noi. Quindi li salutiamo. Li salutiamo da come qui. Fossero qui. Bene, allora li salutiamo. Salutiamo anche i nostri ascoltatori che non ci stanno ascoltando solo dalle nostre frequenze tradizionali, quelle FM della radio, ma ci stanno ascoltando anche via internet tramite il nostro streaming audio, quindi www.bluradioveneto.it. Cliccate all'interno della pagina riservata ai nostri Incomunicado e c'è Ascolta la diretta audio, quindi cliccando lì si potrà ascoltare anche tramite il sito internet. Allora, una domanda che sicuramente vi avranno posto in molti, e dal 1994-95 che vi conoscete, forse molto in là nel tempo, siete stupiti anche voi stessi? Così tanto, sì. Ecco, vi guardate, siete ancora giovani, come si dice. Ecco, però c'è un nome che vi ha aiutato ad andare avanti, questo Incomunicado. Come mai Incomunicado? Fabrizio, tocca a te. Allora, Incomunicado ci era venuto in mente perché quando abbiamo iniziato a suonare ci piaceva molto il genere progressive, come era stato rivisitato negli anni 80 dai Merillion. Infatti Incomunicado è una canzone famosa dei Merillion, e siccome i primi pezzi che suonavamo, tra i primi pezzi c'era qualche cover e c'erano appunto cover dei Merillion, ci era venuta in mente Incomunicado. Ci piaceva anche l'idea del fatto di comunicare ma aver difficoltà a comunicare, che è un po' il significato della parola. Quindi amavate fortissimamente Fish, l'enorme mole di Fish che aveva una voce meravigliosa, il Peter Gabriel dei Marillion praticamente. Esatto. Mentre stiamo proprio... Chi è in sottofondo? È quello che ha parlato adesso, che parlava di Fish, perché prima hai detto un Maurizio, poi si è perso. Maurizio l'enciclopedia, no, alla lettera F ha trovato Fish. Fish. Quindi, ecco, cominciate a sfogliarlo tranquillamente, perché veramente lui è validissimo, vestito poi in questa maniera serale, in versione enciclopedia della musica, è straordinario. D'accordo, comunque allora, Incomunicado con... appunto questo nome che avete preso dai Marillion, loro lo sapranno forse, i Marillion intendo. Lo sapranno, sì, lo sanno perché sì. Io per un fortuito caso sono andato a un loro concerto che diciamo negli ultimi anni non sono affollatissimi i loro concerti, quindi alla fine del concerto siamo riusciti anche a far due chiacchiere con loro e gli ho dato anche una copia del nostro CD. E quindi ho detto, il nostro gruppo italiano si chiama come una vostra canzone. E si sono messi a ridere, ovviamente. ci sono ancora gli avvocati di mezzo. Sì, certo. Vabbè, comunque in sottofondo stiamo ascoltando anche quello che è il pezzo dei Marillion, Incomunicato per l'appunto. Esattamente. Ecco qua. Grande rock progressivo della nuova generazione, diciamo progressiva in questo caso. E allora torniamo con la nostra base consueta, come si diceva prima, musica live, perché gli Incomunicato sono venuti a presentarci il loro ultimo lavoro che si intitola Musica per Gerani, un titolo davvero particolare e inconsueto, però naturalmente le signore, le casalinghe ringraziano per questo titolo. Apprezzano poi, sicuramente. Poi assolutamente sì. È assolutamente come dire, esportabile, nel senso che così per caso, non so, il nostro pezzo passa in Olanda, può diventare musica per Tulipani, certo. Ecco, poi parleremo anche di questo, perché ci hai dato giusto là per parlare di una cosa importante che sta succedendo nei Paesi Bassi, in particolare in Olanda. Però, visto che si diceva prima, musica live, quindi i vostri strumenti musicali, Fabrizio al basso, Enrico alle tastiere, Fabrizio chitarra e voce, perché non iniziare subito a farci ascoltare qualcosa di vostro? Bene. E quindi, per iniziare, quella canzone che da tanto di Scherzo di Carnevale, visto che domani è mercoledì, come avete intitolato questa canzone che andremo ad ascoltare? Domani è sabato. Non ci crederà nessuno, comunque loro sono gli Incomunicato, eccoli qua, Blu Radio Veneto. Si avvicina e dice: getta il tuo orologio, stasera siamo liberi, domani è sabato. Lei dice: getta una moneta tra le acque limpide del cuore e il sogno già si avvera, domani è sabato. Di te dentro la mia stanza, la solita storia si ripete da sé, quando domani è sabato. Non c'è passione più in te, ti vedo così stanca, la solita storia si ripete da sé, quando domani è sabato. Domani è sabato. Si respira nell'aria stasera, dalle finestre che danno per strada, che fuori è già primavera mentre piove per le strade di Roma. Sdraiata lei inizia a dire che pensi, che sorridi, che cerchi, possiamo far l'amore o uscire, domani è sabato. Non c'è più traccia di te dentro la mia stanza, la solita storia si ripete da sé, quando domani è sabato. Non c'è passione più in te, ti vedo così stanca, la solita storia si ripete da sé, quando domani è sabato. Thank you. sentire unico stasera. Stupiscimi ancora, portami in luoghi a cui apparteniamo solo io e te, senza weekend, abitudini e noia. Perché se non ci credi, nulla c'è, non c'è niente più di quello che vedi, niente oltre questo suolo inchiodato ai tuoi piedi, mentre stanotte puoi volare via, perché domani è sabato. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. In comunicato qui in diretta dai microfoni di Blu Radio Veneto, con questo loro nuovo album si intitola Musica per Gerani, abbiamo già estrapolato una prima canzone rigorosamente live per basso, tastiere, chitarra e voce, e si intitola Domani è sabato. Allora chiediamo a Fabrizio, come mai si parla di sabato? Forse dopo una settimana stancante è successo qualcosa di particolare da ricordare nel Domani è sabato? Sì, l'idea è nata da, in realtà, da una poesia che avevo trovato scritta da un mio amico di Roma. Infatti nella canzone si parla di Roma perché mi sono immaginato questa ambientazione giù a Roma, e parlo un po' di questa coppia un po' strana, annoiata, che domani è sabato, sa un po' di routine, sa un po' stasera è venerdì, dobbiamo per forza fare qualcosa che si ripete tutti i venerdì sera. E quindi mi sembrava carino e anche molto semplice tutto sommato da spiegare questa situazione di monotonia, dove il personaggio, il protagonista, che sarebbe poi chi parla, dice rompiamo un po' questa monotonia, rompiamo questa routine, e domani è sabato, ma può essere un sabato diverso se lo viviamo in un altro modo, diciamo, provando a fare qualcosa che non sia la solita cosa scontato, quello che ci aspettiamo di fare tutti i venerdì sera. Quindi la canzone si conclude, c'è questa strofa che dice fammi sentire unico stasera, stupiscimi ancora, portami in luoghi dove apparteniamo solo io e te, senza weekend, abitudini o noia. Un po' voler rompere la solita routine in cui molte coppie si sentono intrappolate. Ed è Enrico che apre la canzone, apre il ritornello, apre l'impostazione con le tastiere. Come mai avete deciso questo? Allora abbiamo ragionato un po' sugli arrangiamenti di questo disco e ci sembrava maturo poter fare un album con tanto pianoforte dentro. Infatti, sentendo anche gli altri pezzi, il pianoforte è molto protagonista. Sì. E uno, perché ovviamente Enrico è super bravo. è bravo. ma anche perché il... è l'unico che sa suonare, fondamentalmente. È l'unico musicista. Quindi lo metti davanti un po' come quando giocavi a pallone, quello forte, esatto. In attacco. L'abbiamo lasciato anche lontano dal microfono, perché se non sbaglio Enrico è anche un uomo di poche parole. Sì, assolutamente. Sì, è vero, no, sono per motivi tecnici un po' lontano, però ci sono, ogni tanto qualche infilata eccola la qua, faccio anch'io. Come questa, bene. Come questa. E quindi niente, l'idea era quella di fare un disco dove il pianoforte fosse protagonista, che è un po' il legame di tutti i brani del disco, e anche perché sinceramente era anche un periodo in cui ascoltavo molta musica cantautoriale, e cantautoriale fatto col pianoforte devo dire che mi piace molto, è anche molto originale ultimamente, perché non ne sento tantissimi di cantautori. Il pianoforte proprio apre tutti gli altri strumenti in questo pezzo, esatto. E anche negli altri, proprio lo apre da proprio là, e poi dal pianoforte poi gli altri lo seguono, cioè sia te e sia al basso, esatto, il bassista, esatto. Cioè Davide. Bene, andiamo nel 1994, se la cronaca è corretta. Ecco, torniamo indietro, visto che abbiamo tempo a disposizione. E c'era un progetto in quel di Torino chiamato Noesis. All'interno di questo progetto è successo qualcosa di importante, ovvero chi me lo vuole raccontare? Vai, dai, Davide. Parlo per io? Parla tu. Parlo io. L'avevo siamo rimosso. Timidi, facciamo i timidi. Il progetto Noesis è stato il motivo per cui fondamentalmente ci siamo conosciuti. Un nostro amico in comune, Sebastiano, che salutiamo. E Sebastiano stasera. Leonardi. Sebastiano Leonardi, esatto. Che ha avuto, diciamo, questo input da parte di un poeta torinese che ha deciso di sponsorizzare la realizzazione di un album. Anzi, in realtà poi sono diventati tre gli album. Ha deciso di finanziare la registrazione di alcuni suoi pezzi di poesia trasformati in musica e arrangiati da questo nostro amico Sebastiano, che ha chiesto anche il nostro aiuto per fare sia gli arrangiamenti che le registrazioni. Quindi lui ha messo insieme una trentina di persone, di musicisti con cui abbiamo registrato questi album. Ed è stata l'occasione per cui da queste sessioni di registrazione ci siamo conosciuti, abbiamo parlato e alcuni di noi si sono poi ritrovati per suonare anche dopo il progetto. Piace ricordare, adesso a parte gli scherzi, che dal lontano 94, e Sebastiano è solo uno dei tanti fans della prima ora, molti di questi continuano a seguirci. Io mi sono preparato una lista che naturalmente ho lasciato di là nello zainetto, ma dopo andrò a prenderla, così poi li saluteremo. Esatto, sì, c'è stato diciamo un gruppo di amici che ci segue da tantissimo tempo, che anche l'ultimo concerto che abbiamo fatto ci hanno mostrato il loro affetto. E come vai secondo voi questa continua conoscenza, il seguire dopo molti anni? Vuol dire che il progetto era valido, questo è il motivo? Secondo noi sì, perché alla fine non sono soltanto gli amici diretti che ci hanno seguito, sono venuti a ascoltarci e hanno voluto i nostri dischi, ma anche amici di amici, gente che è venuta a conoscerci anche per caso. Questa cosa ci ha fatto un enorme piacere, perché alla fine vedevamo che i nostri concerti c'era anche chi cantava canzoni come Fiction, persone che sapevano le canzoni a memoria e i nostri concerti le cantavano. Bene, poi sicuramente la bellezza ha giocato anche un suo ruolo abbastanza importante, la nostra bellezza, sì, in questo senso. La vostra bellezza artistica, diciamo. Esatto, bellezza artistica. Grazie Flavio. Sì, no, ma vabbè, comunque ricordiamo ancora ai nostri ascoltatori che la trasmissione non sarà solamente da riascoltare poi attraverso il nostro podcast messo a disposizione dai nostri archivi sonori, ma sarà anche una serata da vedere, perlomeno in fotografia, per cui ognuno potrà giudicare la bellezza artistica dei componenti di Incomunicato, che comunque si rivelano delle persone assolutamente fantastiche. Incomunicato, c'era un'altra domanda legata sempre alla vostra conoscenza, ovvero come mai si sono conosciuti cinque persone che parlavano cinque lingue diverse nel senso musicale? Quindi c'era l'hard rock, c'era la musica classica, c'era il funky, perché no, c'era anche quello, come no? c'era anche la musica cantautorale, quindi come diceva prima Fabrizio, come mai cinque esperienze zacchette tutte insieme? Ma credo che di nuovo il merito in questo senso sia stato di Sebastiano all'inizio, che ci ha cooptato per questo progetto Noesis, quindi diciamo per un discorso di cronistoria proprio con Fabrizio, sottoscritto e Luigi abbiamo suonato insieme a Sebastiano in questo progetto Noesis. Dopodiché si è aggiunto Enrico, che è stato cooptato dal sottoscritto, preso proprio per la collottola, vieni per cortesia a suonare con noi, nonché più o meno nello stesso periodo Luca. E il fatto che ciascuno suonasse o ascoltasse musica differente, tutto sommato, forse è stata la ricchezza, no? Che ha diciamo creato un genere, uno stile che tutto sommato chi ci ascolta ci ha riconosciuto, nel senso che è vero che la nostra idea era quella un po' di la musica dei Meridian, ma poi alla fine non eravamo neanche in Meridian, perché abbiamo fatto, non so se è stata una buona o cattiva cosa, l'idea di mandare i nostri dischi agli esperti di Progressive, che ci hanno bocciato clamorosamente perché non eravamo Progressive in quel senso. Certo. C'erano delle tendenze Progressive, ma di fatto era un'altra cosa. Davide, che portava il funky, come si mette assieme il funky con tutte le vostre i vostri punti di vista degli altri? Chiaramente Davide porta il funky, qualcuno porta la musica classica, come ha detto Flavio, qualcun altro porta qualcosa d'altro, e praticamente il progetto viene fuori. E non è mica semplice, interessante, le diverse facce, i diversi momenti. A proposito di progetto, Maurizio, mi è venuto fuori il CD di Incomunicato, Che si intitola Musica per Gerani. Perfetto. Ecco, l'avevo detto anche prima. Sì. Perché dobbiamo ascoltare un pezzo. Giusto. Stavolta ascoltiamo un pezzo da disco, così prendiamo un po' di fiato e poi torniamo a chiacchierare su questo piacevolissimo argomento, anche perché non c'è da presentare solo questo disco. No, ne abbiamo anche altri due, per cui insomma comunque vogliamo regalare anche curiosità ai nostri ascoltatori. E adesso ci ascoltiamo la traccia numero 2 appunto di questa musica per Gerani, che si intitola Polvere nel sole, e poi torniamo qui in diretta. Blu Radio Sera. questa gente parla o dorme o guarda il mondo scorrere dietro i vetri in plexiglass, ogni giorno in cerca di un domani. Siamo in tanti e se soffia il vento puoi sfiorarci con le mani. Dimmi, vedi anche tu le stelle accese o i neon blu? Non senti che danzi insieme a me come polvere nel sole? Sei tu che puoi cambiare tutto o niente, non possono buttarti giù. Non senti che danzi insieme a me come polvere nel sole? Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccola qua la nostra musica per Gerani con gli Incomunicado in studio per la presentazione di questo loro nuovo lavoro, ma non solo, poi più tardi scopriremo anche altre due cosine legate sempre agli Incomunicato, due cosine insomma, sono stati due lavori importanti, un po' sminuitivo chiamarle così, no, sono due dischi, anzi li ricordiamo subito, il primo si intitola Fiction e il secondo L'alba del viaggio, e quindi è proprio due dei tre CD che fanno parte di questo viaggio sonoro degli Incomunicado. Allora, la canzone Polvere, Polvere nel sole, chiediamo a chi ha scritto il testo, a Fabrizio sì. Anche questa, una breve indicazione di come è nata la canzone. La canzone è nata musicalmente con un pezzo fatto quasi per scherzo al computer. Hai detto funky, leggermente funky. Leggermente funky, che poi... Poi Davide ha allargato, con un bel giro di basso e tutto. E Enrico col pianoforte sul ritornello ha fatto... Tu facevi un po' di effetti con la chitarra. Sì, c'erano un po' di effetti tremolo, un po' un mix tra funky e rock... E c'è sotto una batteria che dà un bel tiro, suonata da nostro Luigi. E invece il testo è particolare perché in realtà è una canzonetta allegra, ma parla di una cosa abbastanza importante, che parla del precariato fondamentalmente. E allora l'idea di questa polvere nel sole che mi era venuta era un po' questi precari pendolari, gente che deve in qualche modo tutti i giorni barcamenarsi con la col vivere in maniera, esatto, da precaria, quindi sono un po' sbattute a destra e a sinistra come la polvere nel sole, e nella canzone ci siamo in tanti: se apri le braccia senti questa polvere nel sole che vola, siamo noi che, insomma, che ci spostiamo da un posto all'altro senza sapere bene perché. E quindi niente, era un modo un po', una musica un po' allegra per parlare di qualcosa di importante. Sì, mentre il pezzo andava, parlavamo con gli amici qui presenti, poteva essere anche un singolo, perché è un po' di movimento, cioè un po' di sì. movimento da un certo fa, da una certa caratteristica. Davide, il tuo basso funky in questo pezzo, leggermente funky, dà movimento chiaramente. Se tu hai voglia, metti il CD nel PC, nel PC, e ci sono delle tracce che normalmente non senti. Oltretutto c'è anche un video a proposito della bellezza di prima, esatto. E fra queste tracce extra ce n'è una che ha la stessa musica di Polvere nel Sole, ma ha il testo originale in inglese. Ah. Ed è un pezzo clamoroso da discoteca, con un testo intraducibile in diretta. Tu prima ci hai detto quando e che cosa possiamo dire, quando e che cosa non possiamo dire. Perfetto. Quello lo senti molto molto molto funky. Okay. Ecco qua. No, tra altre cose, non siete nuovi a questo genere musicale, perché già nell'album L'Alba del Viaggio c'erano state riprese ben due canzoni, una in versione dance remix e una addirittura in versione techno. Esatto, abbiamo fatto questo esperimento, erano gli albori degli esperimenti al computer, sì, che adesso sembrano la normalità, sì, per registrare, certo, ma alla fine degli anni 90 era ancora una cosa, diciamo, che si faceva all'inizio, perché abbiamo ripreso le tracce dei pezzi registrati in maniera standard, quindi con gli strumenti acustici, li abbiamo un po' messi con un po' di elettronica, riarrangiati e rifatti al computer, è venuto fuori, ci sembrava carino il risultato che era venuto fuori quasi per scherzo, l'abbiamo messo sul CD. Sì, certo, io ascoltando il CD anche in automobile a un certo punto pensavo di avere inserito un CD diverso da quello degli Incomunicato, perché avevo assaporato prima delle musicalità che poi venivano stravolte. Ma è perché la nostra è una musica a 390 gradi che non esiste, ma perché proprio ma perché non esiste, esatto, in più ce le abbiamo solo noi. Esatto. E poi perché quelli erano gli anni in cui Fabrizio, visto che ogni tanto torniamo indietro con la macchina del tempo, era a lavorare a Bristol, ed erano gli anni in cui andava a mille il dub. Sì, era la parte del drum and bass. Del drum and bass, eccetera. Famoso disco Dammi, ti ricordi Dammi? Esatto. Famoso album che ha fatto storia all'epoca. E a Bristol cosa si respirava? A Bristol c'era il dub, il drum and bass, c'erano personaggi come Tricky, come i Portishead, i Massive Attack, tutta quella gente lì, e quindi qualsiasi posto dove tu andassi c'era questa gente che suonava questo genere, per cui un pochettino mi era venuta anche a me voglia di fare qualche esperimento. Anche gli Incomunicato, certo. Perché abbiamo suonato, fatto qualche data là, vero? Sì, abbiamo fatto tre date su in Inghilterra, tra l'altro siamo finiti da loro, queste cose funzionano in maniera fantastica, recensiti anche su NME, che è una rivista nazionale di concerti, siamo finiti lì sopra, c'era la programmazione su tutti i giornali locali del Somerset, è stata una cosa molto bella, e tra l'altro sono organizzatissimi loro per fare concerti, perché se tu hai l'ok da parte del locale, se abbiamo suonato in praticamente due posti, erano ma neanche birrerie, erano posti che avevano proprio la sala concerti, concerti e poi al folk club di Bristol, e loro erano organizzatissimi, ti dicevano ok, tu suoni, il giorno dopo ti arriva a casa il bustone con tutti i volantini già fatti di tutte le dimensioni da attaccare, da dare agli amici, la scaletta di quello che serviva per il concerto. Sì, succede anche qua, uguale. Organizzazione fotocopia. sì. Ma adesso abbiamo il maestro Silente che sì, qua, ma sì, Enrico poi, Enrico e poi anche grazie a lui che si facevano questi esperimenti, perché lui in quel periodo adesso dirà lui che cosa suona, ma poi aveva deciso di lasciare da parte un attimo il piano lasciarlo un secondo in secondo piano per buttarsi sull'elettronica, quindi le cose, come ama lui dire, storte che sentite le ha ideate lui, quindi là ci siamo trovati veramente come a casa, vero Henry? Sì, è vero, diciamo che per chiudere il cerchio anche rispetto al discorso di prima sul pianoforte, io arrivo dal conservatorio, quindi la mia passione principale è la musica che io prediligo sempre, comunque rimane la musica classica, però amando la musica a 360 gradi di qualunque genere, l'importante è che sia fatta bene, come si dice, che abbia del contenuto, mi sono lanciato un po' a cercare di scoprire tutte le sonorità possibili, un po' come, che ne so, i compositori di una volta che dovevano imparare anche che sonorità si potevano tirare fuori dall'orchestra, no? Adesso noi qui abbiamo un sacco di mezzi tecnici, quindi bisogna esplorarli. Poi alla fine di tutto questo bel percorso e di esperimenti, con l'ultimo disco ho detto: il pianoforte è lo strumento più bello che ci sia. È lui. E quindi è inutile a volte stare a cercare tanti suoni che stupiscono, e poi ormai ultimamente abbiamo già sentito quasi di tutto da quel punto di vista. E poi tra l'altro col pianoforte abbiamo visto che è uno strumento immortale dal punto di vista della moda, no? Quindi mentre tu oggi scegli un suono ai tempi di Bristol, il drum and bass, piuttosto che l'elettronica, l'inizio dell'elettronica, suoni insomma di tastiera, identificano sempre un periodo preciso che poi passa di moda immediatamente. Il pianoforte senti delle cose degli anni 60, degli anni 70, del 2010 e non passa mai. Quindi non passa mai, assolutamente, è vero. Mentre ci sono certi altri strumenti che vengono un po', come dire, rispolverati, ripresi in mano, tipo può essere la fisarmonica piuttosto che anche la tromba. So che è presente anche la tromba all'interno di uno dei vostri, dei vostri pezzi, o in più di uno adesso. Certo. Ecco. Ma ci sono altri, visto che rimaniamo un attimo sulla musica classica, così ne approfittiamo anche per dire che oltre al pianoforte c'è un violoncello, sì. Quindi il maestro Fabrizio De Donatis, che fa parte, oltre a essere un professore, suonare nell'orchestra del Teatro Regio di Torino, la Filarmonica, quindi un vero professionista, ha suonato il violoncello in lettera Giulia. Sì. Oltretutto Fabrizio De Donatis ha questo gruppo, di cui fa piacere parlare un secondo, si chiama Ottocelli, quindi sono otto violoncelli che però in questo caso non fanno solo musica classica, ma fanno musica da film, fanno per esempio, Maurizio, una stupenda Eleanor Rigby. Bella, fantastica. Fantastico. E questo è uno. Mentre poi c'è da Bologna invece Vladimiro Cantaluppi, che ha collaborato con noi per fare le parti di violino, che anche lui è una persona che viene dal conservatorio e si è prestato a fare queste registrazioni. Tra l'altro io su Bologna adesso sto suonando anche con altra gente, tra cui anche questo Vladimiro, che sta mettendo su un progetto cantautoriale, per cui saluto anche tutti i ragazzi di Bologna. E il fatto che queste persone abbiano collaborato alla realizzazione di questo disco insieme al pianoforte classico è venuta fuori una bella atmosfera anche orchestrale che poi comunque rende molto nell'ascolto. Bene, allora facciamo rendere molto nell'ascolto anche un altro pezzo live con gli Incomunicado qui a Blu Radio Veneto. E stiamo piacevolmente conversando con loro per la presentazione del disco nuovo, si intitola Musica per Gerani. E allora vediamo di innaffiare ancora una volta questi Gerani con un altro pezzo. Anch'io sono passato da qui. Si intitola così? Esatto. Sì. Esatto. È lui. E questo sei tu, ma oltre al tuo nome c'è di più. Osserva e giudica e non sa scendere più in giù come faceva già tuo padre e come fai ora anche tu. In superficie nulla appare, ma quanto pesano milioni di stelle quando senti che sei vivo e vorresti urlare anch'io: sono passato da qui e questo sei tu. Che tenerezza che ora fa questo bambino chiuso in te, così testardo e fragile che non si arrende alla realtà. E se ci pensa trema un po', perché la vita è un brivido. Quanti milioni di perdenti intorno e tu a provare e riprovare per sentirti vivo e dire: anch'io sono passato da qui. senso c'è a certi giorni così inutili, a certe notti chiuse in macchina imitando la felicità per non buttarsi via così. E questo sei tu, ma oltre ad un nome c'è di più, di più, dei compromessi di ogni giorno, della mediocrità che ha intorno, di più di scarpe e prezzo fisso, di più di sogni al buio addosso, di più, di più, di più. Che il tempo è poco ed è già domani, che il mondo ascolta un solo istante e poi mai più, stavolta dirlo, ci sei tu. Anch'io sono passato da qui. Blu Radio Veneto. Blu Radio, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Anch'io sono passato da qui, queste parole veramente meravigliose, piene di una grande emozione proprio nel cantarle. Loro sono gli Incomunicado con l'album che si intitola Musica per Gerani e sono qui con noi a Blu Radio Veneto, e quel pezzo che avete appena sentito era proprio in versione live per basso, chitarra, tastiera e voce. Sì, con molto pathos, Fabrizio, hai cantato con molto pathos, gli altri ti hanno seguito con molto pathos, anche se non hanno cantato. È un pezzo sofferto, come ha detto giustamente Flavio, anche dal punto di vista strutturale, musicalmente parlando. Adesso me ne devi parlare, per forza. Allora, sulla musica può parlarne Enrico, perché la musica l'ha fatta lui. Quindi vai, Enrico. Prima parlo lui. Sì, questo pezzo appunto è nato da un brano che io avevo scritto per pianoforte solo. Quindi un po' di classico. Sì, l'avevo proprio scritto con l'idea di fare un pezzo per pianoforte, perché ultimamente, a parte qualche raro caso, sempre poi in direzione commerciale, non voglio fare nomi per non alimentare polemiche varie, comunque ultimamente non si scrivono più brani per pianoforte solo, non se ne scrivono abbastanza, secondo me, come dicevamo prima. Comunque il pianoforte rimane sempre uno degli strumenti più magici, più completi che ci siano. E quindi io avevo scritto questo pezzo per me, senza neanche avere velleità poi di diffonderlo più di tanto. Era stata una cosa mia, intima. Questo l'ho arrivato io. Poi chiaramente agli amici uno le cose le fa ascoltare. Certo. E io subito mi si sono drizzate le antenne appena l'ho sentito. Ho detto, qua viene fuori un pezzone. Sì. Notare che su 5 che siamo, 4 non volevano che ci fossero le parole. Non volevano che ci fossero, si dice, le parole. Comunque, quindi doveva essere strumentale. Doveva essere solo strumentale, perché anche lì, anch'io sono passato da qui strumentale, pelle d'oca. Sbaglio o è anche lui anche in una track? C'è nel CD. Ecco, quindi sentendo il CD nel PC, sentirete, anch'io sono passato da qui solo strumentale. Sì, c'è stata una accesa discussione, ma come è giusto che sia nei gruppi, motivo per cui poi si riesce a creare effettivamente qualcosa. Le parole di Fabrizio, di cui adesso ci parlerà, sono effettivamente bellissime. Alla fine è uscito il pezzo. Possiamo chiamarla una ballad sofferta, posso dire così? Sì, possiamo chiamarla. Il pezzo parla fondamentalmente. Anch'io sono passato da qui, nel senso di qualcuno che vuol fare qualcosa che valga la pena, vuole inseguire un sogno o lasciare comunque un segno di sé. Scusa, volevo solo togliere semplicemente. Dimmi. Non la vedo solo così sofferta, nel senso che anche se forse in alcuni momenti può sembrare un po' struggente come pezzo, nelle intenzioni mie non doveva essere così. Era un po' quel sentimento un po' romantico. Quindi romantica, vedi, possiamo che non dire. Doveva diciamo scrivere le parole. No, ma anche le sue parole comunque non sono... No, in realtà non è un pezzo né triste né, diciamo, negativo, nel senso che parla semplicemente del voler lasciare un segno. Ho preso delle frasi che avevo in mente. Allora, c'era questo titolo, nasce da una lettura che avevo fatto di Terzani, dove parlava fondamentalmente di Buddha. Sì. nelle sue disquisizioni, e parlava che appunto il suo nome nella loro lingua vuol dire colui che è passato da qui, cioè colui che ha lasciato un segno. Allora ho detto, ma questa frase qua però adesso me la segno perché mi può tornare utile. È totalmente altro genere, totalmente altro filone, da Bukowski. Ah. Da Bukowski ho preso alcune idee, tra cui c'è una frase che a me piaceva moltissimo, quando parla questo sei tu, sei più di scarpe al buio addosso, che c'è un aforismo di Bukowski che dice ed eccomi qui, scarpe al buio, eccomi qui sdraiato, scarpe al buio. Fondamentalmente parlava della sua vita da disperato, no? E questa idea delle scarpe al buio, di una persona che dorme con le scarpe, mi sembrava carina come immagine. In questo caso il pezzo era già scritto da Enrico, poi l'avete sviluppato, ma quando capita il contrario, cioè tu fai i testi e li presenti agli altri, la musica come viene creata? Sui testi tuoi o viceversa? Facciamo un lavoro, diciamo, di ci ragioniamo sopra. L'idea fondamentalmente è quella che io faccio un testo e sopra ci suona una chitarra, come potrebbe essere la chitarra da spiaggia, quindi senza nessuna velleità. Dopodiché sui singoli accordi, sulle singole parti, ognuno lavora col suo strumento, il pezzo si ritaglia, si modifica, si allunga, si accorcia. In questo caso qui, per esempio, il pezzo di Enrico, il pezzo classico che c'è anche nel CD, la versione diciamo completa di pianoforte, è molto più lunga di questa canzone. Quello che abbiamo fatto, ci siamo messi insieme a lavorare, abbiamo ritagliato dei pezzi per farne strofa e ritornello, in modo da trasformarla nel formato canzone, anche se il suo pezzo era più da dura 7-8 minuti. Sì, è un po' più lungo, ci sono altri due temi diversi che poi non abbiamo riproposto, proprio perché sarebbero funzionati come canzone. Esatto. Quindi il ritornello di questa canzone è stato scritto apposta per la canzone. A me viene in mente una cosa di molti anni fa, tema variazione canzoni degli Osanna. Vi ricordate gli Osanna? Gli Osanna avevano fatto Lino Vairetti. È bravo, è un soundtrack, cioè una colonna sonora di un film, e il film era un film di Polziesco, mi pare, però era questo tema variazioni canzone fatto da allora, una cosa meravigliosa, e questo romanticismo mi ricorda quelle cose là di un po' di tempo fa. Stiamo parlando di album come L'Uomo, oppure come Palepoli, forse disco meno difficilissimo ma interessantissimo, pieno di jazz, sì. Assolutamente pieno di jazz. Benissimo, allora abbiamo capito che stiamo parlando di un album davvero gradevole, sia nella sua forma classica, quindi da CD audio, sia nella forma super tecnologica da CD da PC, perché all'interno di questo, oltre che ascoltare le canzoni, ci sono anche delle sorprese, quindi un motivo in più per entrare in possesso di musica per Gerani degli Incomunicado. A proposito di questo, ricordiamo che c'è un sito internet che è incomunicado.it, all'interno del quale ci sono i vari link che, perché no, portano anche all'acquisto del CD. Esatto, c'è il nostro disco su iTunes e su Amazon MP3, e quindi chi vuole può, qualsiasi posto del mondo sia, può prenderlo, scaricarlo. E comunque noi abbiamo lasciato anche la possibilità di sentire le canzoni direttamente in streaming sul sito, così chi vuole provare a sentire che cosa facciamo non è obbligato a fare l'acquisto per forza, insomma può ascoltare se gli piacciono e poi decide se acquistarlo o no. Benissimo, allora adesso andiamo appunto un po' indietro nel tempo, ripercorrendo alcuni momenti del tempo che fu con L'Alba del Viaggio. Proponiamo un pezzo, si intitola Ovunque sei, e poi torniamo a commentarlo insieme. Blu Radio Sera. Ti sveglierai 7:40 in punto, ricorderai le facce di ieri sera ai bar, e troverai il solito frigo vuoto che ti aspetta ormai, e questa nostalgia di lei e del momento dei pensieri seri. Ma quando ho amato io non ho scherzato mai. Ti troverai di corsa nel centro del traffico, nel cuore avrai qualche parola sussurrata, al buio vedrai tutti i tuoi slalom per non impegnarti mai, come pioggia che scivola via. Ora stiro le mie idee, piego ogni pensiero. Sono un uomo stropicciato ma sincero. E ogni volta che ritorno a casa sogno ancora te. Aprire questa porta e poi sorridere. Ed un milione di colori intorno, fiori e girasoli stanno aspettando il giorno che tornerai da me. Ti sveglierai 7:40 in punto e guarderai un'insolita città e cercherai disordinatamente la felicità, temendo di non averla mai. Se ora avessi le parole ti descriverei com'è, puntualmente grande il letto senza te. Ed aggrappandomi alle stelle, ogni notte osserverei le tue labbra mentre dormi ovunque sei. Mai. E ogni volta che ritorno a casa sogno ancora te. Aprire la mia porta e poi sorridere. Ed un milione di colori intorno, fiori e girasoli stanno aspettando il giorno che tornerai da me. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ancora buona serata a tutti gli ascoltatori di Blu Radio Veneto. Io sono Flavio Bilato, come c'è Maurizio Calzavara. La puntata di questa sera, sempre in versione live, vede protagonisti loro, gli Incomunicado. Vengono direttamente da Torino, ma per essere più precisi, due da Torino e uno da Bologna. In questa serata si sono incontrati proprio qui a Padova, perché all'interno degli studi di Blu Radio Veneto regna sempre la buona musica. Loro lo sanno e sono arrivati per questo. Siamo arrivati, così facciamo un po' di storia, anche perché nel lontano 99, credo che fosse il 99, qualcuno che voi conoscete molto bene, sentiamo, tale Alberto, Alberto Prisco? Mi pare che si chiami proprio Prisco, cognome. Sì, salutiamo il nostro direttore artistico, dovrebbe fare un giretto, però il nostro direttore artistico. Ci telefonò allora a Torino e abbiamo fatto questa bellissima intervista dal telefono da casa, con appunto chiacchierata, certo, e musica. Questo grazie all'amico Raniero di Firenze, che era amico comune e che gli aveva consegnato il nostro CD. Fiction. Esatto, Fiction è stato un pezzo importante, via, come si dice, ha aperto molte strade. Quali strade? Fiction praticamente è stato il primo pezzo che abbiamo registrato insieme, e siamo partiti io e Davide, eravamo, mi ricordo ancora, credo fosse gennaio del 94, e durante la sessione di prove con il nostro amico Sebastiano per la registrazione con i Noesis, io e lui ci siamo trovati, gli ho fatto sentire lì questi accordi della canzone su cui lui si è improvvisato, ha inventato il suo giro di basso. E dopodiché abbiamo deciso di andarlo a registrare coinvolgendo le altre persone, che poi piano piano Luigi, il primo è stato Luigi Murgi, il batterista, che ha poi dopo è diventato il nostro batterista, diciamo, stabile. E con lui abbiamo registrato questa canzone, che risente un po' del tempo, nel senso che se la si sente insieme a tutti gli altri, si sente che sia come qualità di esecuzione sia come qualità di registrazione è molto vecchia. Anche perché erano i momenti dei buono alla prima, perché lo studio costava molto, bisognava per forza andare in studio a registrare immediatamente. Quindi è stato un buono alla prima, registrato tutto in un pomeriggio. Però fa ancora, diciamo, il suo effetto, perché quando lo fate suonare, lo suonate dal vivo ancora? Lo suoniamo dal vivo in versione forse un pochettino più rock della versione, perché lì è molto acustica lì sopra, invece dal vivo lo facciamo con delle chitarre un pochettino più rock, e fa, diciamo, il suo effetto. Il maestro Enrico lascia da parte di nuovo il pianoforte, ci mette a Mondoni, cose allucinanti anni 70. Però per essere preciso, visto che vedi, io lo dico, lo faccio apposta a dire delle cose così come mi vengono, così mi corregge. No, è vero che dal vivo ci metto gli Ammondon. Ah, meno male. Sì, però così, nota di informazione, è che è l'unico brano in cui nella registrazione non sono io il tastierista che suona. Che è stato Sebastiano. Sì, Sebastiano, il nostro amico Sebastiano. Perché sono arrivato che il pezzo era già stato registrato, andava bene così com'era. E quindi... avevamo questo pezzo, quindi registrato su cassettina, al quale poi sono seguiti subito dopo gli altri che avevamo fatto insieme, e da lì, diciamo, è nato il gruppo, perché poi ci siamo trovati per il progetto. Ecco, la cosa che prima dicevate sulla questa fusione, questa simbiosi, questa sinergia. È stata probabilmente una fortuna incredibile, perché appunto ognuno aveva un genere diverso che ascoltava, però avevamo in comune l'idea di voler fare roba originale. Quindi quello è importante. Non ci siamo mai presi, diciamo, non abbiamo mai avuto il problema di voler fare più cover o più canzoni originali. La priorità era fare canzoni originali, fare qualcosa di originale, e poi ovviamente intramezzandole anche con delle canzoni più famose, per come si fa di solito. Certo, no? Già all'epoca c'era il problema delle cover, però. Indubbiamente. Quindi. No, anche perché diciamo che per un ascoltatore che sente per la prima volta delle canzoni, tutto un concerto intero di roba mai sentita può essere un po' impegnativo, un po' pesante. Certo. Allora, soprattutto per il gestore del bar o del locale. Soprattutto per questo. Sì. Esatto. Sì. No, è vero questo, anche perché bisogna prima proporsi come cover band, di solito gioca così, e poi magari dentro ci puoi piazzare qualche altra cosa, e qualcuno, l'intenditore del momento del gruppo di cover, dice: ma questa non... quando l'hanno fatta? Oltretutto le cover band hanno assolutamente la loro importanza essenziale, e questo è uno dei motivi per cui sono così importanti, perché ti permettono comunque di continuare a suonare. Come hai detto giustamente prima, Flavio, io e Enrico siamo arrivati da Torino, Fabrizio da Bologna, dove vive e lavora, e però riusciamo a continuare a suonare. Se riusciamo a continuare a suonare, perché ciascuno di noi ha il proprio progetto. Fabrizio accennava prima al proprio progetto solista su Bologna. Io suono con un gruppo evocativo che si chiama 10HP, quindi immaginate da cosa proviene. Quindi ne approfitto anche un secondo per salutare Paolo, Pino, Marco ed Elia ed Enrico. E io invece suono con un gruppo meno evocativo, ma sempre di cover, che si chiama Cromosoma 22, party band, e poi suono con invece un gruppo di scoppiatoni che vengono chiamati come i Joy Tassello and the Excellent Adventure, che è un progetto molto particolare, guidato appunto da Joy Tassello, che è un personaggio nostro di Torino che saluto, e tra l'altro adesso sta facendo la sua trasmissione televisiva su 4Music TV, che praticamente parte invece da un progetto di risuonare colonne sonore di film, telefilm, cartoni animati, nel genere che ti prende in quel momento lì, no? Fai un esempio. E quindi abbiamo fatto, che ne so, la musichetta di Super Mario Bros. Sentiamo. In versione Latin. Beh, adesso da solo non saprei cosa fare così sul momento, però è un progetto molto divertente, nato dall'idea di volersi divertire con la musica e fare anche una sorta un po' di cabaret. Quindi le musiche dei videogames in versione classica. Videogames non classica, no. Cioè, per esempio, appunto, abbiamo fatto anche brani di heavy metal, dei Metallica, in versione big band, tipo jazz, oppure swing, anche canzoni dei Nirvana, quello che ci viene da riarrangiare in qualche altro stile. Lì c'è appunto una riscoperta degli stili musicali, dove andiamo a esplorarli un po' tutti, proprio per il gusto di sviscerare la musica nella sua essenza e rigirarla un po' per divertirsi. Altrimenti che divertimento è? Poi è divertimento per i musicisti e anche per gli ascoltatori che poi frugano qua e là per cercare quell'altro accordo. Per i gestori del locale che vedono il locale pieno e quindi dopo ti danno la data, guarda che avremmo anche un altro progetto. E ti offrono quella birra in più. Esatto, e soprattutto la data per l'altro progetto. Allora, ancora con gli incomunicato per ascoltarci un altro pezzo live, questa volta spegniamo tutto? Tagli di luce? Sì, quello. A posto. Grazie. Non so, per noi è sempre così, no? Sul cosa suoniamo, cosa c'è adesso? Tagli di luce. Benissimo. A posto. Grazie Flavio. Lei attraversa la sua stanza, fatta dietro i vetri nel silenzio del mattino. Lei ha le fate intorno a sé e piano chiude gli occhi tra i pensieri da bambina. Tu ora resti qui. Che ora so, non piangere così, non ascoltarli, no. Lei vive a fianco a me. Sento ogni mattina prepararsi per la scuola e c'è un'altra volta un'altra storia e dalla stanza ascolta loro litigare ancora. Tu ora resti qui. Che ora so, non piangere così, si cresce un poco e prima o poi si vola via da qui, scalza nell'alba dentro il silenzio, segni di pace, ma questi tagli di luce che nell'aria danzano intorno. Vola piano in mezzo alle ombre, ma questi tagli di luce che riportano la speranza che ora non c'è. Thank you. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Siamo sempre noi, quelli di Blu Radio Veneto, sempre con buona musica a farvi compagnia con gli Incomunicato in questa serata, musica tra live, musica da disco, per la presentazione dell'ultimo lavoro, si intitola Musica per Gerani, e anche con il ripercorrere assieme agli Incomunicato, che sono qui nei nostri studi, anche le tappe caratterizzate da Fiction e dall'Alba del Viaggio, che sono i loro lavori precedenti, seppur precedenti anche in fatto di anni annorum, come si dice, nel senso che il primo risale al 1994, benissimo, quello che si diceva. L'accendiamo prima. L'accendiamo. Poi ancora stiamo parlando dell'Alba del Viaggio del 2001 e poi adesso di questo Musica per Gerani datato 2011. Questo pezzo ha due chiavi di lettura. La prima chiave, all'inizio un pianoforte molto tenebroso, proprio quasi dark, dico io. La fase centrale era molto progressive, poi no, alla fine è una, ritornava, non al tenebroso, diventa una pop ballad. Però la fase centrale era molto progressive su questo pezzo qua, secondo me. Chitarra, voce e chitarra, basso e piano, dava questa sensazione. Non so se siete d'accordo. Sì, sì. Sono 2-3 minuti, però, o 2 minuti centrali, era assolutamente progressive. Sì, è vero, sì, sì. Qualche stacchetto strumentale. Poi diciamo che vabbè, sul disco chiaramente in questo pezzo c'è un po' meno pianoforte, per esempio l'introduzione è di chitarra, non è di pianoforte, quindi io l'ho rielaborata, è adattata a questa versione. Però in questo artistica, momento qui, in questo momento proprio sì, alle 22:02 l'avete fatto in versione leggermente progress, è una cosa molto positiva. Ma ce l'abbiamo assolutamente, comunque, sarete nel sangue. Esatto. Sì, quello, penso che se arriviamo tutti da generi diversi la cosa che ci ha unito è proprio quella, cioè il progressive inteso anche come libertà di poter spaziare, sì, esatto, libertà dagli di spaziare schemi, queste cose qua. Bene, Musica per Gerani ha una bella copertina che richiamo proprio ai Gerani, in una terrazza di una palazzina dalle vostre parti, probabilmente. Bologna. Di Bologna, ecco, perfetto. E poi c'è un libretto. Belle che foto. Belle foto, assolutamente. A con proposito i protagonisti. Della... Ecco, con appunto. I protagonisti. Sì, sì. Quindi sono tutti in penombra. Ecco, per esempio, sì, per esempio, sì. Andrea Mazzuri, sì, che è il nostro fotografo, sì, è il fotografo di Musica per Gerani, così come è stato il fotografo di Fiction. Quindi è un, c'è un altro collegamento, no, è un altro, un dei fans del gruppo, amici della prima okay. ora che esatto. tuttora ci segue, e le foto dell'ultimo live che abbiamo fatto a Torino al Café Libera il 7 ottobre c'era lui che ci faceva le foto, quindi a proposito di quello che si diceva prima. Bene. Allora, parlando di Musica per Gerani, voi l'avete definito così nella vostra copertina, è sempre entusiasmante e affascinante avere qualcosa da raccontare attraverso la musica, emozionare anche un solo ascoltatore in mezzo a tanto rumore, al di là di mode, generi musicali e complimenti di circostanza. Vale qualsiasi fatica, viceversa sarà ottima musica per Gerani. Ecco qua. E vedere qui Gerani crescere sarà per noi una gran soddisfazione. Come mettere il caffè nella terra, bravo, di Gerani per dargli sostentamento e forza. Allora, questa cosa l'ha scritto uno che poi ci sono due cifre, FLE. FLE, sì. FLE, che boh, non sono io, ma, Flavio. No, FLE è un... Sì. Non so, deve essere un visionario. Sì, Flaubert, forse. E può essere. Potrebbe essere, può, sì. Sì, è vero, è vero. Vai Fab, racconta. Allora, questa cosa dei Gerani ci ha creato qualche perplessità. Sì. Penso che FL voglia dire Fabrizio Luglio in questo caso, sì, no? Esatto, esatto. Ma allora, dopo avremo modo di suonare la canzone che dà l'ispirazione a questa Musica per Gerani. Ditemi voi se fare un'anteprima o parlarne dopo. Comunque no, ne parliamo dopo quando la suoneremo. Ne parliamo dopo, no, ma non so. Ma. Vedi come funzionano i gruppi? Ma sì. No, dai, non dai. O e no, o e dai. Diciamo e non diciamo. Allora, questa canzone parla di. Allora, premessa: sì. Il testo nasce non da me, fa parte di quelle due canzoni che ho scritto, diciamo l'idea l'ho presa da questo amico di Roma che si chiama Pietro Bottai, che aveva scritto questa specie di storiella su questo tizio che aveva una fidanzata insopportabile, per cui addirittura quando si doveva alzare di notte per andare in bagno doveva fare attenzione, perché qualsiasi cosa facesse sarebbe stato bastonato, no? Allora questo poveretto si alza per andare in bagno, ma siccome dà fastidio decide di andare a fare i suoi bisogni sul terrazzo, perché così non dà fastidio a nessuno. E tutte le volte che arriva su questo terrazzo vede questi gerani e dice: ah, mi sfogo sui gerani. Che comunque crescono. Che comunque vede crescere, certo. giorno dopo giorno. Allora... senza essere visto dal ministro, da Giovanardi, no? In questo caso. Esatto. ha già criticato queste forme estemporanee di abbeveramento, esatto, di strade, palazzi. Esatto. Allora, mi piaceva tantissimo questa storia di queste... È modo strano di raccontare quanto è difficile stare a volte con una persona che magari con cui sei affezionato, ami, da impazzire, però ha le sue diciamo sfaccettature, anche la convivenza. E allora ripreso il testo, ho messo sopra la musica e trasformato in una canzone, e diciamo che il tema centrale per questo episodio che capita sul balcone insieme ai gerani, per cui l'idea di musica per gerani, un po' come dire la musica oggi viene trattata male, fa un po' la fine che fanno i gerani sul terrazzo quando questo qui va a fare i suoi bisogni, ed era anche per dire: se volete ascoltarle, farci attenzione, dedicarci un po' di tempo, questa è la musica. Se non ci dedicate niente, vi passa così, sarà musica per gerani, ma per noi sarà una gran soddisfazione vedere quei gerani crescere. O tulipan. O tulipani, sì, perché allora parliamo appunto, abbiamo detto, rimandiamo dopo la presentazione di questo, perché per tulipani? Per tulipani, perché adesso facciamo un esperimento in diretta, nel senso che non ne sa niente neanche Fabrizio, ma no. Dato che Fabrizio è stato a Bristol e sa molto bene l'inglese, sì. Allora io saluto Johan, Enk e Marlene, che fanno una trasmissione che si chiama Dorged Ride, traduci Fabrizio. Non so cosa voglia dire, ma è... No, traduci quello che ho detto io. Rifacciamo tutto. Sì. Io parlo e tu mi fai il traduttore simultaneo. Wow. Intanto Maurizio si è messo le mani nei capelli. No, assolutamente. Ah, no. Okay. Allora, ciao ragazzi, we are incomunicado. Ecco, hello, are incomunicado from Padova. Ecco, esatto. Quindi salutiamo loro. Adesso, a parte gli scherzi, questi... ragazzi fanno questa trasmissione che si chiama Dorged Ride da Groningen in Olanda. Sì. Gli abbiamo inviato il nostro CD e questa trasmissione va in onda ogni 15 giorni. Due particolarità: la prima, che ci ha messo nella playlist per tre volte di seguito, in mezzo a, ovviamente in mezzo ad altre musiche di emergenti, no? Gente che non si sente tanto, mai, no? Non si sente David, sì, U2, Police, Nelly Furtado, gente così, ma sì. Uno... del sottobosco musicale, assolutamente, diciamo, certo. Un po' come noi, incompresi, ecco. Esatto. No, voi siete incomunicabili. È giusto, è vero, sì, ecco. È vero, te lo ricordo, ecco. Ecco. Sì. Ma la cosa interessante è anche che questa trasmissione viene on air da da un ospedale, quindi si sente ovviamente anche all'esterno, però è una cosa che trovo molto molto interessante, ed è un progetto che va avanti da 23 anni e mi sembra che ci sia un bel gemellaggio in questo senso anche con voi, perché anche il vostro spazio, io qui mi permetto di spendere due parole, innanzitutto per ringraziarvi e poi perché Maurizio 172, sì, c'è il nostro direttore artistico, ciao qua. Alberto, ma lo 172. Prima. 172 concerti l'anno scorso 172 concerti. Si diceva prima della difficoltà per una band di penso di parlare anche a nome di Enrico e Fabrizio, assolutamente, di reperire spazi e tutto quanto, e questo per noi è una opportunità enorme, molto bella, quindi complimenti per l'idea e andate avanti. Grazie a voi. Vabbè, allora mentre raccogliamo i complimenti direi di mettere un altro bel pezzo del vostro repertorio, sempre dall'alba del viaggio. Questa volta abbiamo La pioggia di primavera, che in un certo senso forse riguarda sempre quel quadretto legato ai gerani, vasi e così via. Vedi, tutto torna, tutto è un cerchio. Benissimo, allora ce l'ascoltiamo qui da Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Se questo visto il mondo, visto da vicino. Fatemi andare più indietro, lasciatemi sola. Così pensò ad alzarsi e andare lontano, lasciare il suo letto al mattino. Un orologio è fermo da ore, io merito di più. Di un uomo stanco che non parla d'amore, si fa dolce nel letto per avere di più, di più. Pioggia di primavera, portami via di qui, da queste notti di silenzi senza amore, dove si è liberi. C'è un uomo migliore lì fuori, che mi sappia ascoltare e che mi porti un po' fuori. Uno col dono di parlare più chiaro, a torto a ragione a priori. Lei si volta nel letto e ripete ogni parola da ripetere a lui. Ma poi lui apre la porta e si finge a dormire. Un sorriso si finge sul volto, si finge. Pioggia di primavera, portami via di qui. Da false attese di parole che scaldano il cuore, dove si è liberi. Pioggia di primavera, portami via di qui. Da notti eterne di abbracci senza amore, dove si è liberi. Yeah. Radio Sera. Blu Radio Sera. Il pezzo si intitola Pioggia di Primavera, era il 2001, l'alba del viaggio, il titolo del CD Incomunicado, il nome del gruppo. Questo gruppo ce l'abbiamo, seppur in forma ridotta, acustica, in versione live, qui dai nostri studi di Blu Radio Veneto. Quindi ancora una buona serata a Davide, Enrico, ciao. E Fabrizio. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Allora, Incomunicado è arrivato un messaggio tramite Facebook che dice così: un caro saluto da Modena a Fabrizio, complimenti a tutti gli Incomunicado da parte di Simone Oliveri. Grazie, grazie, grazie Simone, grazie Simone. Grazie mille. Ecco, la, posso dire una cosa su questa? Sì, dimmi su questo pezzo. Su questa cosa che è fantastica, che è accaduta rispetto a quel progetto che dicevo prima, su cui suono, su Bologna, eccetera. Certo. Ho partecipato con un pezzo di questo disco. Sì. A una raccolta che si intitola Sonda. Sì. Che è un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per la promozione di artisti emergenti, e il pezzo è stato Feriti ma vivi, che poi facciamo qui dal vivo. E questa raccolta è girato per Bologna, per Modena, per vari posti, diciamo, nella zona intorno a Modena-Bologna, e mi ha permesso di conoscere un sacco di persone che mi hanno scritto, mi hanno contattato via Facebook e mi hanno detto che la canzone gli era piaciuta. E poi con l'occasione ci siamo visti, incontrati, scambiati pareri musicali, eccetera, per cui da una semplice canzone è nata poi insomma conoscere tutta una serie di nuove conoscenze, appunto, che mi ha fatto un piacere incredibile. Diciamo il potere della musica, la, certo, magia della musica, che consente anche queste cose. Modena Bologna è come una volta ancora il centro della musica, o adesso un po' meno, visto che tu abiti a Bologna un po' di tempo? Guarda, perché Modena era il bastardo posto, piccola città bastardo posto, come diceva Bonguccini un po' di tempo fa, da radici. Però mi sembra che Modena sia molto molto viva dal punto di vista musicale. Io, stando a Bologna, l'ho frequentata, diciamo, poco, perché la conosco da quando ho partecipato a questo progetto musicale. Mi sembra che sia abbastanza movimentata. Bologna musicalmente è movimentata, ma c'è un problema di spazi a Bologna. Ho capito. Perché molti locali sono nel centro, dove non si può assolutamente far rumore, quindi vanno molto forti le coppie, due acustici, sì, piuttosto che situazioni soliste, cantautoriali, ma suonare con un gruppo non è così facile. I posti dove fanno suonare i gruppi sono posti che fanno parte comunque di un circuito, dove ci sono delle agenzie che organizzano i concerti e tutto, quindi per riuscire a entrare non è facile. Certo, questa è la situazione di Bologna. La situazione di Torino com'è, Davide o Enrico? Io non faccio commenti. Non fai commenti. Io devo dire questa cosa, che solo per concludere, che chi viene da Torino si aspetta di trovare Bologna la capitale della musica. Esatto. Viceversa, Bologna dicono: ah, tu vieni da Torino che è la capitale della musica. C'è un po' questo mito reciproco. Sì, diciamo che Torino è una città con un grandissimo fermento musicale, e quindi con delle cantine molto calde, piene di musicisti che hanno voglia di creare. E dall'altro lato devo dire che forse il pubblico torinese è meno abituato ad andare a ascoltare gruppi nuovi nei locali, non c'è molto forse la cultura di andare alla scoperta di qualche cosa di nuovo, piuttosto appunto si preferisce la cover band o la serata danzante, queste cose qua. Io negli anni ho notato un po' questo, però questo sicuramente non ferma gli artisti di Torino, perché infatti, come si vede, ne escono tantissimi. Quindi la nostra fucina è sempre in piena attività. Diciamo che c'è una mole musicale superiore alla mole antonelliana. Assolutamente. Sì. Sì. Bravo Flavio. Sì. Tanto per sfoggiare, sì, un po' di cultura. Lì il tuo direttore artistico è qua dietro di me. Ecco, adesso ne parliamo con lui. Sì. Grazie, grazie. No, Torino, sì, c'è un centro jazz assolutamente di livello europeo, tanto blues, un folk house, un locale storico, sono usciti nomi notevoli, buoni ultimi, i Subsonica, tanto per dirne una. C'è una grossa vita anche movida, se vogliamo, vita notturna. Io ne approfitto anche per invitarvi personalmente, ma invitare anche gli ascoltatori, a venire a vedere Torino, perché dalle Olimpiadi del 2006 si è completamente ritrasformata, io credo anche lasciando stupefatti noi torinesi. Quindi se vi capita, venite a passare un weekend da noi. Poi un posto dove suonare lo troviamo. Bene. Assolutamente valido questo invito, naturalmente non solamente per noi di Blu Radio Veneto, allarghiamo agli ascoltatori di Blu Radio. Venite a Torino. Venite a Torino. Ecco, trovarci. Per questo, diciamo, l'Incomunicato sta lavorando anche con l'agenzia di promozione turistica di Torino. Sì. No, è che amiamo la nostra città e, certo, siamo un po' sabaudi dentro, e chi è sabaudo sa cosa intendo, certo, quindi certo, ne parliamo volentieri. Benissimo, allora diamo ancora spazio alla musica degli Incomunicado. Questa volta tocca appunto quello che si diceva prima, Feriti ma vivi, quel pezzo che faceva parte di quel grande progetto. Ecco, allora ce l'ascoltiamo qui in diretta dagli studi di Blu Radio Veneto. Siamo folli, lo sapevo già, che mi emoziona il suono del tuo nome, che il tempo passerà e cancellerà questa nostra passione. È un incidente sulla nostra via. Se siamo soli dentro casa mia, se ti stai spogliando già, tornerà per sempre l'emozione. Vivi, vivi, vivi, siamo vivi in questi abbracci sotto il cielo. Vivi, vivi, così vivi questo conoscersi da zero, questo rinascere se arrivi, questo morire via da te, questo lasciarci ora. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato anche questo pezzo degli Incomunicado, Feriti ma Vivi. L'album è sempre quello che stiamo prendendo maggiormente in esame, musica per Gerani, e questa, oltre che essere la canzone che faceva parte di una compilation, è anche inserita in questo album, appunto, musica per Gerani. Ricordiamo ancora una volta il titolo, Feriti ma Vivi, quindi un brano sofferto, che però dà il senso di una rinascita, in un certo senso. Sì, è una canzone che parla di fondamentalmente un amore impossibile, e è tutta, diciamo, una storia d'amore, di passione, che inizia come finisce, nel senso che la prima strofa dice che siamo folli, lo sapevo già, e termina dicendo ma senza follia quale vita c'è, nel senso che alla fine, al di là di tutto quello che è la razionalità e tutto quello che sono i pensieri che passano per la testa, alla fine poi si ascolta il cuore, anche se questo è un po' a volte seguire un po' un filo della follia. Certo, c'era Steve Jobs che parlava di follia, no? Sì. Steve Jobs, dicevo. Sì, esattamente. Siete, no, siete affamati. Scusa, Davide. Non avevo sentito il nome, scusate. Non volevo dire una cosa inutile. No, Feriti ma vivi è bellissima anche perché, diciamo, è da sprone a buttarsi ogni tanto, no? Avere un po' di coraggio nel vero Maurizio? Sì, ma da sprone anche Enrico a buttarsi a danzare sulle note del piano, che costruisce un'architettura per la voce di Fabrizio, ma danza sulle note del piano, questo si sente, si vedeva. Beh, che sì, ami, grazie. Particolarmente questo pezzo, ci sei entrato dentro, possiamo dire questo. Sì, diciamo che è una cosa che cerco di fare in tutti i pezzi, entrarci dentro e tirare fuori le emozioni che magari lui racconta con le parole, con le note. E questo devo dire che grazie al fatto che, insomma, il pezzo è proprio molto bello, molto di bello, suo, sì. Mi ha ispirato da subito e quindi io sento con le note quello che Fabrizio canta con le parole. Sì. Tra l'altro nella registrazione che c'è sul CD c'è anche una bellissima orchestrazione dove ci sono degli archi dell'un'orchestra che ha arrangiato Enrico, che veramente dà il tocco finale a tutta l'atmosfera. È un'altra chiave, un'altra immagine vostra, tante immagini sonore messe assieme nel progetto nuovo. Sì. Mi è piaciuto il giro di basso? Molto bello. Sì. Ma se non c'è, non importa, c'era lo stesso. Ci immaginava, c'era lo stesso. Poteva esserci. Si voleva prendere in contropiede. Poteva non esserci. No, comunque, assolutamente complimenti anche a Davide, che in questo pezzo è stato veramente fermo. Direi fondamentale. Ecco, fondamentalmente non mi fermo. Si è sentito, e questo è la mia. Di solito, durante questo pezzo, io, Luigi e Enrico ci attacchiamo una birra. Sì. Quando loro lo fanno dal vivo. Da vivo. Ho giocato a 3-7 col morto. Luca, vabbè. Tu, io, Luigi e Enrico. Ah, scusate, io, Luigi e Luca. No, ecco, Enrico suona, è impegnato. Benissimo. Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori che la trasmissione andrà avanti ancora. Adesso stiamo passando le 22:30. Non essendoci il collega delle ore seguenti, ancora un po' possiamo andare avanti, proprio perché c'è tanta voglia di ascoltare la musica degli Incomunicado e ancora alcuni pezzi da inserire all'interno della scaletta, perché poi ci siamo persi in mille chiacchiere assolutamente piacevoli e quindi, insomma, c'è tempo per dare la linea agli altri. Bene, no? Noi stiamo bene. Qua. Ah, benissimo. Stiamo qui? Sì, dai, no. Ok, perfetto. Sì, benissimo. Allora, okay. Allora, Incomunicado, naturalmente prima si parlava di generi diversi musicali, però ognuno di noi o di voi è nato musicalmente anche ascoltando molti, molti artisti. Quindi, dovendo scegliere ciascuno di voi 5 artisti di riferimento collegati ad un album, cosa vi sento dire? Così tanto per dire agli ascoltatori qualcosa di nuovo da ascoltare. Ah, di nuovo? No, perché io ho iniziato ad ascoltare grazie a mamma e papà che avevano tale Elvis Presley 45 giri che ci sono ancora, sì, certo. Da qualche parte, sì, Maurizio, sì, sì. Se riesco la prossima volta te li porto. Bene. Io, quindi, ascoltate Elvis e poi più grandicello, 12-13 anni, i primi album acquistati coi soldini sono stati The Number of the Beast degli Iron Maiden, uh-huh, e The Zenyatta Mondata dei Police, e poi a 18 anni forse qualche Elvis Presley, cioè, forse era uno questa è per Lili e Franco. Allora, are you sorry we drifted? Fantastico, che meraviglia, fantastico. Ecco, e poi intorno appunto ai 16-17 anni forse appunto la folgorazione Sailing England by the Pound e Genesis. Sì. Ah, abbiamo parlato prima di iniziare il programma, avevamo parlato dei Genesis, avevamo parlato dei risvolti sul famoso traduzione di Armando Gallo, esatto, da Ciao 2001. È una cosa meravigliosa che alcuni della mia età ricordano. Non dire di tu una certa età. Non dire di una certa età. Della mia età ricordano, perché Armando Gallo scrisse la traduzione italiana di Sailing England by the Pound, che è l'LP dell'epoca, lo trova. Bene, oppure si compra anche quel disco di Giammetti, quel libro di Giammetti, uscito da poco, sì, che sviscera tutti i testi dei Genesis, compresi in che situazione si trovava diciamo l'artista mentre componeva il pezzo. Un libro bellissimo, che se uno vuole proprio entrare dentro al mondo Genesis, lui da là scopre assolutamente tutto. Quindi complimenti anche per il lavoro. Io lo sto leggendo un po' alla Bene. volta. Ecco, sono arrivato alla lettera A di Abacab, però insomma prometto che andrò avanti piano. Fabrizio piano. Enrico invece? Io velocemente diciamo che mi sono avvicinato proprio al suonare musica leggera dopo già tanti anni che suonavo solo musica classica, ascoltando Elton John, mm-hmm, che chiaramente viene da sé, è stato certo il primo che mi ha ispirato a provare a tirare giù degli arrangiamenti al pianoforte, a improvvisare, quindi mi ha fatto un po' da prima scuola. E poi appunto, tralasciando tutti i vari autori classici che ovviamente mi hanno influenzato inevitabilmente, posso citare Dire Straits, che ho ascoltato tanto in gioventù, anche perché erano appunto tra le preferenze di mio padre, quindi c'erano anche già in casa. E per citare qualcosa di recente, diciamo che uno tra i miei gruppi preferiti sono i Dream Theater, almeno non quelli ultima maniera, diciamo quelli prima maniera, Images and Words, Wake, quelli sono album che, se devo dire appunto un album che mi ha folgorato, tra gli album che mi ha folgorato ci sono proprio quelli, e sono assolutamente fantastici, perché proprio lì trovo che abbiano usato la musica anche loro a 360 gradi e hanno trovato dei bei motivi, dei bei temi, dei bei collegamenti per costruire un prodotto che usciva abbastanza dagli schemi, pur rifacendosi alla tradizione progressive e tutto il resto. Certo, stiamo parlando di Dream Theater, quindi anche di quello che viene considerato il new progressive in questo caso, quindi una nuova rivisitazione metal, dove c'è l'heavy metal che la fa da padrona, però non è solo heavy metal, c'è un sacco di altra roba dentro. C'è più contenuto, sì. C'è più contenuto, certo. Visto, tocca a te. Io fondamentalmente più di tutti ascolto gli Incomunicado, che, giusto, che sembra una banalità, ma è vero, nel senso che ogni tanto mi riascolto e sono sempre più perplesso quando riascolto i dischi che facciamo. Però al di là di questa cosa, mi piace molto Tori Amos, che è un po' stato l'idea su cui basare questo disco, nel senso che è un po' cantautoriale, con tanto pianoforte, arrangiamenti classici così, quindi è sicuramente fonte di ispirazione. David Gray, che è un cantautore inglese, che ha fatto delle cose, esatto, molto particolari, molto bravo. I Muse, che sono un gruppo che mi piacciono molto, veramente molto. E cose italiane, ho ascoltato tantissimo De André, ma non tanto il padre, che apprezzo, il figlio che ha fatto delle cose notevoli, perché ha modernizzato un po' lo stile del padre e si è avvicinato a un genere cantautoriale, ma anche con un arrangiamento sofisticato sotto, quindi è un po', mi ha dato parecchie idee anche ascoltarlo, mi piace molto. Io invece ho una domanda da fare a Prego. Voi due. Sì. Voi due diteci, perché voi le fate sempre agli altri, però sì, noi non sappiamo. Sono 10 anni che le facciamo agli altri. Sì, sono 10 anni appunto, che le facciamo agli altri. Ma voi diteci anche solo 2 o 3... Vabbè, per Maurizio sarà un po' più difficile, visto che è un'enciclopedia, però dai. Tre nomi almeno, tre nomi uguale. Maurizio, dai, ce li facciamo. Intanto mi preparo. Stevens, i Beatles e i Rolling Stones. Stevens, Cat Stevens. Sì. Ah, ok. Bene, io invece dico le Orme, dico i Genesis e dico i Beatles. Ecco perfetto. Anch'io, sì, ecco. Diciamo qualche album di riferimento, non so. Dai, sì. The White Album dei Beatles, per esempio. Selling Island by the Pound dei Genesis, mi piace da matti. E poi ancora l'altro artista, cosa ho detto, scusa? No, perché ne avevo degli altri. Hai detto le Orme. Le orme. Ecco, delle Orme potrei citare Collage, che Benissimo. Forse è il più progressive di tutti gli album che hanno fatto, ce ne sono di bellissimi. Comunque sì, speriamo anche di avere molto presto l'ex diciamo il fondatore delle Orme, certo, ex componente attuale Aldo Tagliapietra. È uscito l'ultimo disco da qualche giorno, si intitola Nella pietra nel vento. Confidiamo di averlo ospite in studio prossimamente. Bene. Si è fatto una cosa, quando è venuto qua in agosto, ha fatto una cosa meravigliosa, un unplugged. Era giugno, pardon, sì. All'inizio dell'estate, facciamo così. E ha fatto un unplugged, quasi 2 ore solo di musica unplugged, assolutamente, cioè non aveva portato, non aveva nessuna scaletta, via, è andato avanti così. Andato a ruota libera, a ruota libera. E noi più che conduttori siamo stati spettatori della cosa. Noi alzavamo e abbassavamo i cursoni in questo caso. Questo è per dirci che la prossima volta che torniamo anche noi, sì, dobbiamo farvi una sorta di concerto. Certo, okay, assolutamente sì. Ci prepariamo. Allora, agli amici ascoltatori di Blu Radio Veneto, ricordiamo che siamo ancora in diretta e stiamo parlando con gli Incomunicado. Sono venuti a trovarci da Torino. Sono tre i dischi che abbiamo ascoltato. Il primo, che in ordine cronologico è anche l'ultimo, è Musica per Gerani. Poi ci siamo affacciati all'alba del viaggio ascoltando due pezzi. Adesso tocca a Fiction. Fiction ascoltando anche il pezzo che dà proprio il nome all'album, e poi cercheremo di scoprire qualcosa di più di Fiction. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sogni, guarda dove vai. Forse hai qualcosa da dire, ma le parole ingannano la gente. E la poesia non ha sfamato mai. Senza sorridere ho imparato anche a perdere. Senza nascondermi ho imparato a stare qui. Terra di zingari senza mete da raggiungere, piccole anime senza attimi da spendere. C'è qualcuno in lacrime, dorme sotto la tua pelle. C'è un uomo immobile sotto un cielo senza stelle, ma prigioniero di una terra arida. Sono attimi le cose che ho. Stasera in mezzo a tante luci, in mezzo a tanta gente, dove ci si può scordare di sentirsi giù. Madre, madre, guarda, tuo figlio è solo veramente. Parla e digli che c'è qualcosa in più. Oltre le immagini delle notti che ho passato, una ragazza ai suoi fianchi e le sue spalle piene di lentiggini, luci di macchine, meteore in una notte torrida. Muovo le spalle, sono solo ormai da secoli. C'è qualcuno in lacrime, dorme sotto la tua pelle. C'è un uomo reduce da una vita senza guerre, ma prigioniero di una terra arida. Sono attimi le cose che ho. Stare qui, terra di zingari senza mete da raggiungere, piccole anime senza attimi da spendere. C'è qualcuno in lacrime, dorme sotto la tua pelle. C'è un uomo immobile sotto sotto un cielo senza stelle, ma prigioniero di una terra arida. Sono attimi le cose che ho, attimi le cose che ho. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Incomunicato con Fiction, sia il titolo dell'album sia il titolo della canzone che ci siamo ascoltati. Questa fiction, che significa finzione, ovvero un creare qualche cosa che non esiste e rivisitarla in varie forme. È così che è nata la canzone, Fabrizio? Sì, l'idea era appunto quella di vedere quante volte ciascuno di noi indossa una maschera, no? nella vita quotidiana, e parlare un po' di tutte le varie maschere che ognuno si inventa per credendo che sia quella più adatta a lui, invece magari poi subito dopo cambia o ne trovo un'altra. Quindi la canzone classica del Martedì Grasso, abbiamo parlato, esatto, di maschere, esatto, in tutte le sue forme. Infatti anche tra l'altro la copertina dell'album è proprio una maschera. E c'è un sax qui, un sax antedatato, di un po' di tempo fa mi faceva Fabrizio mentre il pezzo, era il microfono aperto. Ma perché ancora era, come dicevamo prima, infatti si sente che un pezzo registrato... Sì, di un certo tipo, in certa maniera, e c'era ancora la formazione, non era proprio perfettamente definita, e in registrazione avevamo chiamato un mio amico che suona il sax, Diego si chiama, e che si era prestato per fare gli assoli, visto che non eravamo il chitarrista solista ancora, abbiamo fatto fare gli assoli di sax. Era l'unico pezzo di tutti i tre dischi dove c'è il sassofono. Esatto. Era il sassofonista degli Spandau Ballet. Adesso ve lo possiamo dire. Certamente. Era in prestito, vero? Esatto. Passava di lì. Perfetto. No, volevo chiedere, visto che abbiamo ascoltato Fiction, a qualcuno può piacere anche questo album? È disponibile sempre nel vostro sito per acquistarlo, se qualcuno lo vuole? Allora, il CD è andato sold out, come si dice, nel senso che sono finite le copie che abbiamo stampato ai suoi tempi, però si possono sentire sul nostro sito, si possono sentire credo 3 o 4 brani del disco, e poi noi scriviamo comunque anche sul sito, lo riscriveremo anche a breve, che chi vuole il nostro disco, se ci scrive in qualche modo, in questo caso qui gli possiamo mandare il formato elettronico, quindi gli MP3 eccetera. E poi magari lo metteremo anche su iTunes, anche questo qua, vediamo un po'. No, perché ci sono pezzi che veramente acchiappano anche all'interno di questo, se l'ascoltatore ha tempo, volontà e orecchio per ascoltare, sicuramente trova delle valide sonorità all'interno. Ma è sempre sorpreso da quello che dici? No, assolutamente. Beh, sorpreso nel fatto positivo, perché ascoltando anch'io i pezzi di Incomunicato li ho trovati assolutamente validi anche nel tempo, anche questi, pur sempre scritti un po' di tempo fa. Tra le altre cose, Fiction, questa finzione, nasce da dietro i sipari, no? Quindi da dietro i sipari uno si aspetta di cominciare ad ascoltare subito una canzone, in realtà no, c'è una performance teatrale. Esatto, sì, c'è una performance di due nostri amici che hanno recitato in questo disco, e l'idea era quella di fare un concept album, quindi una storia che si sviluppa per tutto il percorso del disco, e in questo percorso appunto si parla di questo personaggio che indossa le varie maschere finché alla fine la maschera finale, che è quella che scopre che è più adatta a lui, è essere se stesso, che sembra banale a dirsi, ma in realtà per come si legge poi tutto il percorso che viene spiegato nel disco, si capisce quanto è difficile arrivare a questa diciamo scoperta. E poi alla fine un'altra parte teatrale dove si dice adesso si può andare in scena. Esatto, e il disco si chiude in questo modo. Esatto. Andiamo in scena. Andiamo in scena. E il fatto di fare il concept album è stato insomma abbastanza impegnativo, perché collegare tutte le canzoni avendole registrate in un arco di 3 anni, perché il disco è stato diciamo fatto a pezzettini anno dopo anno, è stato insomma abbastanza intrigante come lavoro, anche proprio scriverlo e comporlo insieme. Adesso Fabrizio, ritorniamo un momento adesso praticamente al 2011, ricordiamo Marco Bertoni. Sì, Marco Bertoni, che è un produttore di Bologna con cui abbiamo collaborato per la sia per la compilation Sonda che dicevo prima, dove è stato inserito Feriti ma Vivi, e soprattutto perché col disco nuovo. Questo progetto molto molto bello che sta andando avanti, ha avuto molto successo, sì, è una cosa che credo che non si faccia da nessun'altra parte. È stato finanziato un gruppo di produttori, di persone che lavorano nell'ambito proprio della produzione della musica, e anziché promettere mari e monti, loro semplicemente ascoltano il materiale e consigliano come instradare la propria musica per metterla meglio a fuoco, quindi capire cosa togliere, cosa mettere, fare un lavoro con un professionista che dà dei suggerimenti. Ecco, in questo senso Marco è stato molto molto utile, perché mi ha aiutato anche a registrare le parti vocali, e dall'inizio, dove non si sapeva bene se cantarle in una maniera più aggressiva, più rock, meno rock, lui ha trovato mi ha suggerito insomma anche un percorso di modo di cantare che poi alla fine si è rivelato vincente, nel senso che era il modo migliore, più adatto alla musica che c'era nel sottofondo, quindi è stato proprio una bella esperienza. E lui poi ha anche collaborato nel mixaggio finale del disco, nell'impacchettamento finale di tutto il lavoro. Bene. Volevamo ringraziare i fans che ci stanno scrivendo su Facebook, quindi Barbara in modo particolare, non so io perché, Luigi, Daniela, Simone. Luigi da Milano addirittura ci sta ascoltando. Esatto, quindi proprio lui, Luigi da Milano ci sta ascoltando, eccolo qua. Johan Oiting, Raniero Pozzi, Barbara Mare, ecco, c'è il direttore artista. Johan dall'Olanda, hi Johan. Sì, poi c'è anche Federico che scrive: io ho una copia di Fiction, poi me la firmate, così poi la vendo al miglior offerente. Tienla stretta, bravo, esatto, tienla stretta. Acquista valore con l'età. Assolutamente, tra l'altro Federico fa parte del gruppo di fans della prima ora, ma lui è legato in modo particolare, se è il Federico che penso, detto anche Jimmy, non a caso, a Pioggia di Primavera che abbiamo sentito prima, quindi sì. Salutiamo. È già disponibile un'immagine su Facebook che riprende voi tre, carissimi incomunicato, che state piacevolmente conversando. Quindi si capisce perché è da 14 anni che siamo sulla cresta. Sì, certo, della gallina. Bravo. No, ecco. Bene, allora, ancora incomunicato con questa musica per Gerani, un altro brano live, poi mi spiegate anche chi è lei, ecco. Assolutamente. Te lo potrà spiegare poi, chi te lo può spiegare è Pietro, giusto? Sì, l'idea nasce da questo nostro amico di Roma che ha scritto questa idea di questa donna insopportabile che all'inizio si chiamava Laura e poi è stata ribattezzata in Claudia. E adesso vi raccontiamo la storia, che è abbastanza particolare. Facile, è tutto un togliere e mettere, se ami solo lei, che dalla sua stanza il bagno era lontano pochi metri, se di notte mi alzavo per pisciare io mettevo tutta l'attenzione, perché per Claudia il silenzio era d'oro speciale. Se tiravo l'acqua Claudia si incazzava, ma se non lo facevo si incazzava il giorno dopo. Pisciava allora sul terrazzo e vedere quei gerani crescere era per me una gran soddisfazione. E non è facile, è tutto un togliere e mettere, se ami solo lei, è un disfare e ricucire, è una sporca odissea, naufraghi nella marea, e sapere che a volte non vorresti amare mai. adesso mi vedo con un'altra. Non viviamo insieme, ma non so bene il perché. Forse non voglio mai vedere i vestiti della sera, già pronti sul suo letto dalle tre. Forse voglio osservarla quando scende tutta a posto e portarla a casa se va a me, e pisciare appoggiato sempre alla stessa mattonella, tirare l'acqua ascoltando un po' di musica. Pioggia che cadrà, poter scegliere stanotte dove dormirà, è una sporca odissea di cuori naufraghi nella marea, e sapere che a volte non vorresti amare mai. È tutto un togliere e mettere, se ami solo lei, è un disfare e ricucire, è una sporca odissea di cuori naufraghi nella marea, e sapere che a volte non vorresti amare. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Devi fare piano con Claudia, il titolo di questo pezzo che ci siamo ascoltati con l'Incomunicato, l'album in questione è Musica per Gerani. Abbiamo già spiegato chi è Claudia, qual è il suo comportamento e quali sono le paure di stare vicino a Claudia. Sì, e soprattutto cosa portano. E soprattutto cosa portano. Vabbè, comunque devi stare attento con Claudia, un titolo bello che merita di l'approfondimento nell'ascolto del pezzo, acquistando il CD, no? Certo. Quindi Musica per Gerani. Allora, abbiamo ancora pochi minuti per stare insieme, però almeno ancora due canzoni, di cui una da disco e un'altra live per salutarsi. Cosa ne pensate? Direi che è assolutamente fantastico. Allora, intanto ci arriva un suggerimento da Facebook di una persona che, guardando la prima foto ufficiale del Comunicato all'interno di Facebook, dice di a Dave di mettersi un po' in posa. In posa, sì. Di più ancora? Sì, di più ancora di quello. Ok, sì, comunque. Vabbè, comunque poi naturalmente ci sarà una selezione naturale di tutte quelle che sono le foto che abbiamo scattato in questa serata. Scelte da noi, Ecco, ok, va bene. Secondo me l'amico del vostro direttore artistico, sì. Questo. Sì, esatto. Uno che abita a Firenze. Certo. Sì. Modificate a Photoshop e poi verranno presentate. Naturalmente ricordiamo ai nostri ascoltatori che la puntatona di questa sera assieme all'Incomunicato sarà presto disponibile anche all'interno dei nostri archivi sonori, e quindi se tornate a curiosare nella pagina di bluradioveneto.it, nella notizia riservata all'Incomunicato e anche all'interno della nostra pagina Facebook, quindi Blu Radio Veneto Rock Wave, potrete trovare, diciamo, le coordinate, il link per riascoltarvi la trasmissione o parte della stessa. Ecco, non pretendiamo che siano ascoltate tutte le due ore, ma almeno 119 minuti direi che sono più che sufficienti. Almeno. No, ecco, benissimo. Allora, prendiamo un po' di fiato, ascoltiamo un altro pezzo da Fiction, visto che ce l'abbiamo inserito nel nostro lettore CD, ascoltando anche una canzone che mi sa tanto di Germania dal titolo, quindi Heidelberg Suite, e poi capiremo, poi ve ne parliamo. Benissimo, allora ne parleremo dopo, quindi adesso Heidelberg Suite con gli Incomunicado. Blu Radio Sera. Dalle fermate che portano gente verso il centro città, mi fermo a guardare lo sciame scorrere via. Il grigio incorniciato sui muri sparge malinconia, ed il cielo è un mosaico tagliato dai fili dei tram. Ed è chiaro fin da sempre che in questa fiction cerchiamo qualcosa a cui poterci aggrappare, a cui poterci aggrappare. Ricordo ancora una ragazza e il suo violino, voltata verso Marktplatz, cantava e non capivo le parole, ma sentivo vibrazioni, ed ecco questo è quello che noi siamo, parole e suoni, e immagini e sogni, parole e suoni, e immagini e sogni senza alcun significato, come spazi tra le righe, come elenchi di ricordi, aspettando chi ci interpreterà. Invano cerchiamo e fingiamo, invano cerchiamo qualcosa e fingiamo. Invano cerchiamo qualcosa Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E questa è Heidelberg Suite, incomunicato da quello che è stato il loro lavoro Fiction. Allora, come mai Heidelberg? Heidelberg, te lo spiega adesso Fabrizio. Io ho una storiella su questa canzone per spiegare proprio come nascevano e come nascono le nostre canzoni. Strimpellata sulla chitarra da me a Brescia, è stato lavorato per 2 mesi, quindi fuori Torino, torno dai ragazzi, la propongo, piace tendenzialmente, poi naturalmente viene, appunto, come si diceva prima, ognuno mette il qualcosa. Fabrizio dopo vi parlerà del testo, che è meraviglioso, ma io ho un ricordo affettuosissimo con il maestro Enrico, perché a un certo punto avevo deciso che la canzone dovesse fermarsi e far partire appunto il pezzo di piano che avete sentito, e ho detto: guarda, gli accordi fanno così, e poi gli ho fischiettato, no? Così, papà. E Enrico, ricordo che mentre io fischiavo suonava praticamente in automatico, ma non solo, poi mi diceva: ma ti piace di più così o ti piace di più in questo modo? Ti piace più? Ed è un ricordo bellissimo questo pezzo. Un pezzo molto interessante, pezzo progressive al 100%, sì, poco da fare. È un periodo diverso, chiaramente. Sì, qua l'anima prog nel primo disco è, diciamo che viene fuori sicuramente. Perché poi eravamo anche giovani, pieni di ideali, entusiasmo e voglia di dare il massimo. Ma non è mica l'entusiasmo, c'è ancora adesso, chiaramente. Non è passato, sì, però si è, diciamo, trasformato. Cioè, si è stemperato, possiamo dire. Esatto, possiamo dire così. Il testo nasce da un viaggio fatto in quel periodo lì ad Heidelberg con gli amici, e ero rimasto colpito da questa violinista che in mezzo alla piazza suonava con quel violino e cantava suonando il violino, solo voce e violino, ovviamente non capivo niente, quindi ero rimasto colpito dal fatto che, pur non capendo niente, mi emozionava questa scena di questa ragazza che cantava da sola in mezzo alla piazza con tutta la gente intorno che l'ascoltava, e da qui poi ho ripreso il testo, che diceva che a volte, anche se non si comprendono le parole che ci diciamo, c'è comunque qualcos'altro che ci trasmettiamo quando siamo, diciamo, ci relazioniamo a qualcuno. E Heidelberg Suite, mi piaceva l'idea di questo titolo, perché questo fatto era venuto ad Heidelberg, ma anche il suite, perché la stanza di Heidelberg dove eravamo, ma anche la suite nel senso musicale, cioè una composizione fatta da più parti, infatti la canzone è fatta da diversi pezzi. Che classe. Heidelberg, che ricordiamo essere nel Baden-Württemberg, proprio in Germania. Sì, vicino a Francoforte. Sì, vicino a Francoforte, è la zona 6, tanto per intendersi, per chi conosce i post-Lightsalen. Bellissimo posto, tra l'altro, sì, veramente, sì, bella città. Benissimo, allora incomunicato, noi ci dobbiamo salutare, purtroppo abbiamo... Siamo andati avanti piacevolmente. Caspita. A parlare di quella che è la vostra musica, non solo parlare, anche facendo ascoltare molti pezzi sia da disco sia in versione live, e quindi adesso è il momento di smontare tutto. No, fermatevi, non è ancora il momento. No, perché adesso noi vi salutiamo e vi lasciamo ancora i microfoni aperti, perché ci sarà ancora un ritorno al passato con l'alba del viaggio e la tua stanza. Ma prima una promessa: quando tornate a trovarci con una nuova cosa? Ah, quando ce lo direte voi. Chissà, magari già quest'estate. Sì, sì, sì, sì, perché ci sono già delle cose pronte. Su cui si sta lavorando, assolutamente. Quindi prendiamo nota. Assolutamente. Benissimo. Sì. Qualche appuntamento live dalle nostre parti? Dalle vostre parti no, ma se avete delle proposte, noi le accettiamo ben volentieri. Vabbè, se avete dei locali da proporci, in tutti i sensi, senz'altro. Non è ancora definitiva al 100%, ma dalle nostre parti, dalle parti di Torino, d'Orbassano per la precisione, dovremmo fare un concerto nel mese di aprile al Sonic. Lo cito velocemente, il Sonic, perché è un progetto meraviglioso che ha ideato Fabrizio Prest, l'omonimo del nostro cantante, nel lontano 1980 qualcosa, purtroppo non mi sono segnato la data esatta, ed è un progetto legato alla musica, sale musicali e corsi di musica, naturalmente a prezzi assolutamente concorrenziali, politici, portato avanti da questo ragazzo che all'epoca era un antesignano. Quindi un saluto agli amici del Sonic, speriamo di vederci presto. Bene, allora noi salutiamo, è stato bello stare insieme agli Incomunicando, grazie Incomunicato, scusate. Figurati, sì. Ringraziamo noi voi. Sì, grazie mille. Ringraziamo. Bene. Tantissimo. Quindi ringraziamo Maurizio, Flavio, Alberto naturalmente, e tutti quelli che comunque da tanto tempo ci seguono, nuovi e vecchi fan. Salutiamo anche tutti i vostri seguaci della pagina Facebook. Ah, certo. Ho visto che hanno commentato in molti. Bene. Quindi significato che siete seguiti. Bene, ecco. Sì. Grazie. Avete... a tutti. Bene, grazie. Allora ancora grazie agli Incomunicato, felice rientro in quel di Torino per Davide ed Enrico, felice rientro a Bologna invece per Fabrizio, e grazie, quindi abbiamo grazie. Già strappato la promessa di rivederci presto in questi studi. Assolutamente. Per cui da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara è proprio tutto, grazie, buona serata. Ultimi minuti dei Martedì Grasso, però pensate alla musica degli Incomunicado. Questa si intitola La tua stanza, è tratto dall'Alba del viaggio. Ancora grazie ragazzi di essere stati con noi. Grazie a voi. Ecco qua, microfoni aperti per voi, a presto. Ed ora vorrei una volta ancora le chiavi di casa tua, e salirei di nascosto alla tua stanza ancora buia, tra il tuo letto ed i cuscini che oggi parlano di te, tra le foto sparse in giro che oggi parlano della tua voce mentre piove a Camden Town, di te e me da soli, scarpe fuori da una porta, io e te, questo era ieri o un giorno di qualche anno fa, ora srotolo parole in aria e sto da solo. Questo era ieri o un giorno di qualche anno fa, ora vuoi scusarmi se mi buffi i gesti, parlo ancora. Son pronto a lasciare ogni vestito, tornare vasca in cui parlavamo per ore di te e me da soli tra i sogni e te, strisce di colore, raggi e sole dalle tende dietro te. Questo era ieri, un giorno di qualche anno fa, ora srotolo parole in aria e sto da solo. Questo era ieri, oggi scusa la mia ingenuità e i miei buffi gesti quando provo a cercarti ancora. Quando provo a cercare